Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere e uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure semplicemente Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda la modalità PayPal, basta andare sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è Sostieni e lì ci sono tutte le istruzioni. Per quanto riguarda il cinema, siamo all'appuntamento con Visionari tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming sull'home page del sito della radio c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta della trasmissione di oggi e su Visionari in generale, sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, trovate tutto. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Quest'oggi seconda e ultima puntata di quelle previste decidere la cinquina dei film dello scorso anno, tra quelli preferiti tra gli usciti in sala appunto nel 2015 da amici e colleghi critici cinematografici. Oggi avremo con noi 5 ospiti più un contributo registrato. Oltre a parlare di un'uscita importante di un film restaurato, Il grande dittatore di Charlie Chaplin, lunedì prossimo 11 gennaio. Bene, allora siamo con il nostro primo ospite della giornata, della puntata di Visionari, seconda e ultima, dicevo, per quanto riguarda le cinque tra i preferiti degli usciti in sala nel 2015, e siamo con Federico Pedroni. Ci sei, Fede? Ci sono, buongiorno. Buongiorno, buon 2016 a questo punto, visto buon anno. Ci sentiamo ora. Senti, allora, come duopo ti chiederei un bilancio complessivo di quest'annata. Guarda, il bilancio secondo me è un bilancio abbastanza buono. In realtà questi giochi di classifiche che facciamo tutti ormai sui social, per radio, ma poi li facciamo anche noi tra di noi, tra amici, nell'intimo delle nostre camerette, servono più che altro proprio a trovare, a tracciare un bilancio sull'annata appena passata. Visti i titoli che mi sono appuntato e quelli che dolorosamente stanno fuori da tutte queste classifiche, direi che l'anno è stato complessivamente piuttosto buono, ma io trovo che qualcosa di davvero buono si trovi un po' tutti gli anni. Stiamo sempre a lamentarci sul fatto che non ci sono più tantissimi grandi film, eccetera, eccetera, però secondo me ogni anno si trovano delle conferme, delle scoperte, dei gioiellini. Poi è chiaro, noi ci limitiamo a parlare di film usciti in sala e quindi resta un sommerso molto grosso che noi fortunati, diciamo, riusciamo a intercettare magari nei festival, eccetera, eccetera, che diciamo che dà un quadro un pochino più ampio. Però anche tra quello che è uscito in sala, secondo me, si trovano bei film, insomma, quasi tutti gli anni. Anche quest'anno non ha fatto eccezione. Per questa prima parte posso dirti che mi sembra molto equilibrata. Non c'è un titolo che ha, come nello scorso anno, perché era Boyhood che aveva scalzato tutti gli altri. Mi sembrano tutti più o meno, ce ne sono molti votati e più o meno si equilibra la classifica. Sì, ho visto un pochino le scelte di amici e colleghi della settimana scorsa. Diciamo che i film sono vari, perché forse c'è qualcosa che spicca meno. Boyhood, poi tra l'altro, un film che io ho amato meno di altri l'anno scorso, però era un film che nel caso uno l'amasse, era un film che aveva suscitato dei grandi entusiasmi. Quest'anno diciamo che c'è forse una più diffusa indecisione che crea una diversità di titoli, anche se secondo me ci sono stati almeno un paio di film quest'anno che valgono più di Boyhood, con tutto il rispetto parlando per gli appassionati del film. Senti, allora, cominciamo con le tue preferenze, con qualche nota chiaramente di accompagnamento. dall'alto o dal basso. Ah, c'è anche un ordine, per cui... No, no, va bene, allora facciamo così. No, perché ho molto sofferto, perché avendola fatta appunto per Cineforum la classifica, sì, avevo visto che i primi 5 posti c'erano 5 film americani, allora ho cercato di cambiarla perché mi sembrava un pochino così, insomma, limitante come tipo di cosa. Quindi ho aggiunto, visto che ho amato molto... un film, sia molti film francesi e molti film inglesi, quest'anno ho deciso di metterne uno per una di queste nazionalità. Allora cominciamo a segnare una cosa che non so se è stata già segnata, che è Ex Machina di Alex Garland. Sì, Ex Machina, sì, è un film di fantascienza, io amo molto la fantascienza, poi io lavorando anche al Festival di Torino è stato un anno abbastanza segnato alla fantascienza, che avevamo la retrospettiva quest'anno, e trovo che Ex Machina sia un film molto intelligente, un'opera prima tra l'altro di Alex Garland, che è uno sceneggiatore con la fantascienza, aveva già lavorato, aveva scritto 28 giorni dopo per Danny Boyle, e secondo me è un film riuscitissimo, un film che riporta il vecchio discorso dei rapporti tra uomo e macchina in una maniera molto intelligente, interpretato e scritto benissimo. Per me è stata una delle grandi sorprese, quindi insomma, nonostante appunto dall'Inghilterra siano venuti anche film come 45 anni o come Turner, voglio segnalare Ex Machina. Bene, ok, e questo è uno. Poi stesso discorso dalla Francia, ho visto 3 film francesi che ho amato moltissimo, uno è Le Combattants, The Fighters, e uno è Eden di Nance and Love, però tra i 3 scelgo un film che è molto vecchio, però che è Diamante Nero di Céline Chammas, che era a Cannes nel 2014 addirittura, è però uscito in sala da noi un anno dopo, Bande Fille, tradotto in maniera discutibile Diamante Nero in Italia, secondo me è uno dei film più interessanti arrivati dalla Francia l'anno scorso. La Chammas è una regista molto molto intelligente, il film è un ritratto di una generazione di outsider, ragazze outsider delle banlieue, che racconta una storia di formazione in maniera non scivolando nei birignao da coming of age, non giocando con gli stilemi da film appunto di periferia, ma costruendo una storia sui personaggi molto molto molto bella. Bene, bene. E poi arriviamo ai tre americani che mi sono rimasti e che non posso proprio togliere. Uno è Black Hat di Michael Mann, che è un film che è stato massacrato e bistrattato, ma non ho molto da aggiungere su Black Hat. Io consiglio soltanto di vederlo con gli occhi aperti e per assistere a quello che Michael Mann dà ogni volta, che è un saggio di messa in scena e di regia e di amore e di umanità dei personaggi che è incredibile. Lui gioca con il genere, ma costruisce dei film che sono in realtà delle architetture cinematografiche con al centro sempre e comunque le emozioni dei personaggi. E Black Hat, che finge di essere un film di hackeraggio, è tutt'altro, e invito, e questo è un film che secondo me è stato visto molto pigramente da molti miei colleghi e da molti miei amici, invito a rivederlo, è proprio più una speranza che una segnalazione. Sì, tra l'altro sei in compagnia di Steve Della Casa per quanto riguarda la scelta. Allora mi sento più tranquillo. Vai. Lasciando poi tanti film che ho amato moltissimo in questo fine d'anno, due film che restano non possono che essere quelli che si dividono il mio cuore tra i film usciti in sala l'anno scorso, che sono Inside Out, come tanti l'hanno detto, però davanti all'inventiva della Pixar, davanti alla profondità proprio intellettuale di aver avuto il coraggio di fare un film per ragazzi di quel genere, con quel rischio, con quel messaggio completamente anticanonico che hanno avuto, per me è impossibile non mettere Inside Out tra i 5 film dell'anno, e l'altro è Vizio di forma di Paul Thomas Anderson. Su questi due diciamo che sono più rientro più nei canoni appunto dei gusti generali, però io penso che siano veramente i due film dell'anno. Per ragioni diverse, il film di Paul Thomas Anderson continua nel suo ragionamento tra stile e cultura attraverso in questo caso la California degli anni 70, traduce un libro intraducibile come quello di Pynchon in una maniera personale con folgorazione al cinema classico, non cade nelle trappoline del postmoderno, insomma secondo me è un grandissimo film che conferma Paul Thomas Anderson come probabilmente il miglior regista della sua generazione, che è quella nata appunto all'alba degli anni 70. Godibilissimo anche dal punto di vista formale. Sì, Sì, ma non c'è un film che non, che non si smette mai di imparare guardandolo. Ecco, un film che io ho poi rivisto a casa un paio di volte e continuo a scoprirci delle cose. È un film davvero sorprendente, con due o tre momenti di cinema davvero altissimi. Bene, e a questo punto, Fede, noi abbiamo... La menzione italiana me l'avevi promessa. Esattamente, proprio così, a quello volevo arrivare. Esatto, e anche qui ho grande difficoltà, perché secondo me è stato un anno molto buono per il cinema italiano, da Moretti e Garrone che erano a Cannes, che secondo me sono due film davvero sorprendenti. Su Sorrentino ho qualche dubbio in più, insomma, ho visto degli esordi belli come Arianna di Carlo Lavagna, che stava a Venezia. Il film di Caligari è un film bellissimo e che purtroppo, diciamo, ha dato un po' di visibilità a un autore importante che nessuno si era mai filato troppo prima della sua morte. Però forse, se devo scegliere un film italiano da segnalare, scelgo Bella e Perduta il Dietro Marcello. E qui non eri solo, perché... No, immagino, però il film di Pietro, cioè, secondo me poi è un film che sta a metà tra finzione ed altro, un film difficilmente inquadrabile, però Pietro Marcello è uno dei registi giovani e importanti che abbiamo, quindi insomma, secondo me questo è un film che conferma il talento che già si era intuito sia nel Passaggio della Dina che nella Bocca del Lupo, e che ci consegna un regista già maturo, insomma, già molto molto definito nello stile, nella poetica, insomma, cioè, è la conferma di un grande talento. Bene, Fede, allora io aggiungo crocette su crocette, vediamo cosa ne uscirà fuori alla fine. Ti ringrazio, è stato un piacere come sempre, ci diamo appuntamento. Grazie. Nel corso dell'anno ci sentiremo sicuramente. Benissimo, io il film più bello del 2016 già ce l'ho, che è Carol, perché è uscito adesso, ma è del 2015, quindi mi hanno fatto lo scherzo, però sono già pronto per l'anno prossimo. Cioè, niente male, anche un'altra uscita di questo giovedì, che è La Grande Scommessa, mi ha piacevolmente sorpreso, insomma. Non l'ho ancora visto, andrò a vederlo e ti farò sapere. Va bene. Un abbraccio. Ciao Fede, ciao. Ciao. Questo Federico Pedroni per le nostre cinquine del 2015. Eccoci in collegamento con Giona Nazzaro, ben ritrovato su queste frequenze e buon anno, Giona. Buon anno a te, Federico, e buon anno a tutte le compagne e i compagni in ascolto di Radio Onda Rossa. Bene. Allora, Giona, anche a te chiedo un bilancio complessivo dell'annata cinematografica appena trascorsa. Beh, guarda, i bilanci lasciano un po' il tempo che trovano, se non sono affidati a delle valutazioni che vanno al di là del gusto personale, e poi andrebbero fatti poi al netto di tutte le dimenticanze, gli smarrimenti e le idiosincrasie. Fatta questa inevitabile premessa, così a volo d'uccello mi sembra che si sia trattato di un'annata che ha offerto molti spunti di interesse. Anche soltanto guardandosi indietro così in maniera molto libera, emergono subito dei titoli amati, dei titoli notevoli, dei titoli che in qualche modo si ha il sospetto che resteranno anche negli anni a venire. Quindi questo, quando mi riguarda, è un indicatore della qualità dell'anno appena trascorso. Bene. E per quanto riguarda i cinque, hai avuto difficoltà o sei andato a colpo sicuro? Assolutamente ho avuto difficoltà, cioè le persone che amano il cinema, come le persone che amano i libri, i dischi, sono degli amanti poligami. la tendenza non è quella all'esclusione, ma è quella dell'harem, si è detto senza alcuna in notazione sessista o inflessione sessista. Diciamo, la tendenza è quella di avere amori molteplici, numerosi e interscambiabili, motivo per cui queste liste sono sempre un po' un piccolo, piacevolissimo tormento, perché si inserisce un film e ce ne stanno almeno altri tre che scalpitano e che vorrebbero essere inseriti. E non è un caso che, per esempio, nella lista che ho inoltrato a Radio Onda Rossa siano rimasti fuori due titoli che ho amato moltissimo, davvero tantissimo, che sono Timbuktu di Abderrahman Sissako e Francofonia di Alexander Sokurov, che entrambi sono stati votati anche da altri per i cinque. E io infatti, in maniera un po' pavida, mi sono affidato al voto degli altri, tentando politicamente di votare cose che temevo non ottenessero voti dai colleghi. Quindi ho fatto un po' questa bieca strategia da sezione di partito d'un tempo nel sottoporre le mie preferenze. Deve essere una sorta di virus mastelliano duro a morire, insomma. Senti, Giona, non so poi se hai proceduto secondo un ordine o insomma sono cinque sullo stesso, più o meno sullo stesso livello. No, ho proceduto secondo un ordine, okay. Non in ordine di amore, ma in ordine, diciamo, critico, nel senso che al primo posto c'è il titolo sul quale credo che ci sia stata la più grossa disattenzione e dimenticanza, e che coincide anche con il titolo, che è uno dei titoli che in assoluto ho amato di più, e così via. Ma se permetti, preferirei iniziare dalla fine. Bene, bene, sì. Allora, se non ricordo male, aiutami anche tu, Federico, perché non ho la lista sotto gli occhi, la menzione speciale è andata a un film che ho visto a Cannes per la prima volta e mi ha lasciato stecchito, ed è Mad Max Fury Road. Sì, per sì. Gli spettatori della mia generazione, ed è solo merito, demerito anagrafico e nessun altro merito, Mad Max è una mitologia a parte. L'idea che ritornasse in carreggiata letteralmente mi preoccupava, perché Miller erano anni che non faceva film, era stato lontano, si era dedicato soprattutto ai cartoni, si pensa a Happy Feet, ai maialini, Babe e così via, per cui vederlo ritornare nelle lande post-atomiche da Kenny il guerriero di Mad Max, sai, ma perché aggiustare qualcosa che non si è mai rotto? Questo era il timore. Poi, una volta che si sono spente le luci in sala, la mascella si è staccata, si è posizionata sul pavimento del cinema, e lì è rimasta per tutto il film. Credo che sia uno dei film più straordinari dell'anno che si è appena concluso. Quindi non solo riscrive totalmente le regole dell'action movie, le riscrive a favore di una presa di posizione politica, estetica, analogica, che è assolutamente rigenerante ed entusiasmante, ma è anche uno straordinario testo teorico che è una sorta di pamphlet scritto con, tra virgolette, contro i sequel, contro gli spin-off, cioè è veramente un testo di una complessità linguistica, politica, teorica straordinaria, ed è puro godimento estetico, un film che si può vedere 8 volte di seguito e si scoprono sempre cose nuove. Queste sono un pochino frasi fatte di noi critici quando diciamo queste cose, però è davvero così. Basta osservare le inquadrature, i movimenti di macchina, il montaggio, si scoprono sempre cose nuove. E francamente, quando si dice il cinema d'azione non ha più niente da dire così, George Miller, alla veneranda età di oltre 70 anni, ha dimostrato che invece c'è ancora tutto da dire. Quindi questa questo è uno dei titoli che ho lasciato politicamente fuori, perché ero convinto che avesse entusiasmato anche altri colleghi, però non ho potuto fare a meno di menzionarlo. L'amore, il trasporto quasi erotico nei confronti di questo film è tale che non potevo assolutamente evitare. Bene, bene, bene. E questo per la menzione speciale. E poi ci sono i cinque, partendo dal più basso. Allora, ti devo, aspettami un attimo, aiutami a ricordare. Io ce l'ho segnati, me l'ero segnati i tuoi, eh. Allora, se, abbi pazienza, dammi un aiutino, che non me lo ricordo, mi vergogno come un ladro. No, è Jupiter. Esattamente, Jupiter, il destino dell'universo dei fratelli Wachowski, uno dei film più sbeffeggiati dell'anno che si è appena concluso. In termini economici, il botteghino, un flop disastroso. Un film che non è piaciuto a nessuno e che ho voluto assolutamente ricordare, perché mi sembra che nei gusti ci sia questa sorta di cattiva abitudine, che da un lato, quando le cose vanno bene, come nella trilogia dei Matrix, tutti stanno lì a decantare le novità, le cose. Quando invece le cose si fanno un pochino più sperimentali, più intriganti, come negli ultimi film dei Wachowski, si fa in fretta, si fa presto a impallinare il film di turno. Jupiter mi sembra una straordinaria riflessione su come il cinema d'azione, cosiddetto blockbuster americano, da monosessuato stia diventando totalmente transgender, ed è una riflessione che i Wachowski hanno affrontato soprattutto attraverso il cambio di sesso di Lana, a partire da Speed Racer in poi, cosa che in Jupiter è portata alla conclusione e che nella serie televisiva, anche quella straordinaria, che Sense8, viene proprio esplicitata in una sorta di adesione panica a un polisessualismo tribale che funziona come la rete rizomatica digitale globale che ci avvolge tutti. Credo che sia Jupiter, il destino dell'universo, uno dei film più squisitamente sovversivi in termini di rappresentazione dell'erotismo al cinema. È il modo più intelligente di mettere in scena fantasmi erotici e in chiave politica, appunto insurrezionale. Purtroppo questa cosa mi pare che non sia stata assolutamente colta a livello di qualche studio sui Wachowski, soprattutto in ambito gender negli Stati Uniti. Qualcosa a livello quasi impercettibile inizia a muoversi, e questa è una scommessa troppo facile. Il cinema dei Wachowski da qui a 10 anni sarà rivalutato in toto, ci stanno retrospettive, omaggi, mea culpa e tutto quanto. Mi sembrava che, ricordando Jupiter in questa classifica, era giusto che non si dimenticasse quello che per me è uno dei film più coraggiosi di quest'anno. Bene, bene. E poi non so se hai ricordato, però insomma io ho qui sott'occhio la tua di classifica, quindi ti posso anche aiutare. Aiuta, perché ti avevo mandato un WhatsApp okay. E che adesso sul telefono faccio fatica a consultare il WhatsApp. Al quarto posto trovo American Sniper. Assolutamente, American Sniper del compagno Eastwood, Eastwood è un caso più unico che raro di cineasta conservatore che fa film di estrema sinistra. La riflessione che fa Eastwood sugli effetti devastanti della guerra esporta democrazia in Iraq sono assolutamente lucidissimi per come la guerra, in quanto tumore ideologico di una società, divora dall'interno le strutture di un paese e gli uomini che la vivono e la soffrono. Mm-hmm. E non è tanto in termini ideologici Pacific, che pure è importantissimo, American Sniper, quanto proprio in termini formali. Basta pensare al decadrage iniziale, dove il mirino del protagonista inquadra prima una donna, no, prima un miliziano, che poi entra in casa, e poi dalla porta in continuità esce una donna accompagnata da un bambino. Le ambiguità, le aporie etiche, morali di una guerra stanno tutte in quel movimento, così come Eastwood ha avuto il grande coraggio, la grandissima onestà intellettuale di mettere in scena i soldati americani come dei redneck di provincia, animati da sentimenti razzisti e assolutamente, come dire, poco consapevoli di quello che vivono. Non è un caso che, parlandone con un regista egiziano, Nourin Nasrallah, l'autore del magnifico La porta del sole sul Nakba palestinese, lui mi diceva di non essersi assolutamente sentito offeso dalla rappresentazione che Eastwood aveva dato dei soldati e dei miliziani iracheni, perché dice: quello è esattamente la rappresentazione che mi sarei aspettato da un cineasta profondamente onesto come Eastwood. Non è il film democratico, politicamente corretto, in cui tra le file dei cattivi c'è sempre un buono a levigare le aporie e le complessità di una cosa che in realtà è eminentemente economica e politica come la guerra. E quindi Eastwood, pur da posizioni conservatrici, realizza quello che oggi è l'unico film di guerra possibile, un film che ha la pregnanza dei migliori Sam Fuller, che ha la cinematicità delle cose più belle di Howard Hawks e che ha l'approccio umanista di un John Ford. Ovviamente in Italia il film è stato totalmente frainteso, è stato considerato un atto canagliesco di propaganda filoamericana, però ovviamente non si tratta di questo. Appunto, la conversazione avuta con Nasrallah, che ha molto amato American Sniper, ha ulteriormente confermato questa mia posizione. Sì. Poi passiamo al terzo, che è Sangue del mio sangue. Assolutamente, cioè Sangue del mio sangue è il film italiano più giovane realizzato nel 2015. Marco Bellocchio continua a essere una delle intelligenze filmiche più sorprendenti in attività. Un film anche questo straordinariamente politico, che opera una disamina delle torsioni del potere in Italia, e lo fa con delle forme quasi espressionistiche, quasi come se Bellocchio si fiondasse nell'incubo della storia, dove c'è il rimosso del femminile e del desiderio, dove c'è il grande spettro della Chiesa cattolica e delle sue proibizioni, che si trasformano in questa presenza vampirica, antilibidica, antierotica, che blocca la vita di una collettività, di una comunità, di un luogo. E la cosa straordinaria è come Bellocchio filmi con l'urgenza di un giovane alle prime armi, cioè disrispettando tutte le regole del cosiddetto cinema ben fatto, spezzando il film in due, ricollegandolo con un fulmineo epilogo a come è iniziato, le musiche assolutamente quasi in contrappunto rispetto alla vicenda del film. Sangue del mio sangue è uno di quei film che, visto la prima volta, ti spiazza totalmente, ed è questo essere spiazzati da un film uno dei valori più maggiormente da difendere nell'esperienza filmica, perché, come sosteneva sempre Fassbinder, al cinema si va per fare esperienza, non per essere confermati nelle proprie posizioni, anche per essere turbati, scioccati, scandalizzati. E Sangue del mio sangue partecipa di una tradizione di cinema guerrigliero che non fa nulla per essere piacere, e che proprio per questo si fa male con immenso trasporto. E poi siamo al secondo, un altro italiano. Questo me lo ricordo. Bella e perduta, che appena citato anche Federico Pedroni, per cui si trova tra i più menzionati, a tre voti in totale, quindi un po' sullo stesso piano della decina che sta venendo fuori da queste indicazioni. Sì, Bella e perduta è in assoluto uno dei più bei film italiani degli ultimi anni. È un film che, per quanto mi riguarda, rilancia e permette di ripensare completamente il cinema di Pietro Marcello. È un film che ha avuto anche una serie di traversie, nato come documentario, con il protagonista che malauguratamente scompare a metà delle riprese. È uno dei film che riesce a trasfigurare il dato oggettivo, quasi diremmo cronachistico, cioè ossia la difesa di un monumento abbandonato da parte di una persona del luogo, in una sorta di fiaba iniziatica, di una sorta di apologo morale, quasi come se si trattasse di una delle fiabe riscritte, riscoperte da Calvino nella sua famosa antologia dedicata alle fiabe italiane. Pietro, che è un grande appassionato di cinema sovietico e russo, che oltretutto conosce molto bene il funzionamento delle ottiche, delle lenti, degli obiettivi, ha organizzato una sinfonia visiva intorno a una regione, a un luogo e a una morte che francamente a dir poco commovente nel suo rigore etico e politico, ed è una delle esperienze estetiche più soddisfacenti che il cinema italiano ha offerto quest'anno. Tra l'altro, notazione a margine, in un anno che mi è sembrato particolarmente interessante per quanto riguarda il cinema italiano, non soltanto quello distribuito in sala, ma anche quello visto nei festival, soprattutto documentari. Quindi Bella e perduta è senz'altro un risultato maiuscolo, e un risultato maiuscolo che avrebbe meritato di restare più a lungo in sala. È uno di quei film che l'industria, la cosiddetta industria, ma anche le cosiddette istituzioni avrebbero dovuto appoggiare con maggior convinzione e maggior determinazione. Anche visti i buoni risultati ottenuti al botteghino. Assolutamente, e infatti lo scandalo è che è stato tolto dalle sale nonostante il pubblico e gli incassi. Esatto, con il pubblico che restava smarrito per la serie "Dove possiamo recuperare questo film?". Persone che mi chiamavano dalla provincia, ero andato a cercarlo faccio un esempio, nel luogo tot, l'hanno tolto senza avvisare, adesso non riesco più a vederlo, e così via. E quindi anche la straordinaria qualità del film di Marcello pone una domanda: abbiamo noi una cultura, una politica in grado di difendere quanto di buono viene prodotto oggi? piuttosto che stare sempre a fare discorsi al passato. Il grande cinema italiano di una volta, fatto da persone che purtroppo son defunte da decenni e decenni, perché non difendiamo oggi il grande cinema italiano di oggi? Sì, sì. E su questa domanda arriviamo al primo della tua lista. Questo me lo ricordo, me lo ricordo. Vai allora. Per me il film dell'anno è A Bigger Splash di Luca Guadagnino. Immagino già, come dire, il disappunto, chiamiamolo così, di alcuni dei colleghi, però credo che Luca Guadagnino sia non solo uno dei maggiori cineasti italiani in attività, sia una delle maggiori intelligenze filmiche in grado di pensare il cinema oggi, ed è soprattutto il più italiano dei cineasti nel suo desiderio instancabile di contaminazione. È il cineasta più schiettamente sensuale ed erotico in attività, è il cineasta che conosce come pochi il significato di un movimento di macchina e che con incredibile maniacalità cura ogni dettaglio dei propri lavori. A Bigger Splash ha sofferto di una disattenzione proprio militante, ecco, una disattenzione militante sin da quando è stato presentato a Venezia. Le reazioni nei confronti del film sono state a dir poco superficiali, con motivazioni francamente risibili, e nessuno si è premurato di vedere il film, nonostante l'abbiano stroncato con grande trasporto. Ho avuto modo di vedere il film di Luca, non in Italia, l'ho visto dall'altra parte del globo, una fattispecie in Corea del Sud, in una sala pienissima di giovanissimi coreani che hanno seguito il film con enorme attenzione dall'inizio alla fine, che poi alla fine hanno applaudito con trasporto, convinzione, gioia e così via. E nessuno si è soffermato sul punto che a tutti i cronisti italiani ha dato tanto fastidio, ossia la presenza di Guzzanti. Credo che l'accoglienza che ha avuto, o meglio la non accoglienza che ha avuto il film di Luca Guadagnino, sia sintomo di una sto cercando di misurare le parole ovviamente, di una sorta di incapacità, e metto le virgolette così non offendo nessuno, incapacità di pensare il cinema che esce al di là dei propri recinti critici di riferimento. Uno dei pochissimi critici che ha difeso il film a spada tratta e con grandi motivazioni è Piero Spila, vicepresidente del Sindacato Critici Cinematografici Italiani. E Luca Guadagnino oggi è senz'altro uno dei nomi sui quali converrebbe proprio in termini industriali investire, però evidentemente in Italia non lo si considera tale. Luca, dal punto di vista suo, pur essendo il più italiano dei cineasti italiani, se mi permette il paradosso, continua a lavorare soprattutto in situazioni non italiane. Il film, per quanto mi riguarda, è una delle cose più belle in assoluto viste quest'anno. Senti, Giona, visto che ci troviamo e il sei anche così originale nelle tue scelte, ti dico anche brevemente i miei, visto che ancora non l'ho fatto, in ordine sparso questa volta, e si tratta di Forza Maggiore di Ruben Östlund, per il rapporto tra conflittuale tra amore e istinto di sopravvivenza, e soprattutto quello. Poi Big Eyes di Tim Burton, perché ci dice tanto sul mercato dell'arte e sul falso ideologico. E Selma, La strada per la libertà, di Ava Oyelowo, perché è una bella biografia di Martin Luther King e ci dice anche cose interessanti sul rapporto con l'altro afroamericano del periodo, Malcolm X, e la regola del gioco di Michael Chiesa, perché ci un solido film di inchiesta giornalistica, perché ci dice anche molto sullo scandalo sull'affare CIA Contras in Nicaragua, e poi il teorema della crisi, un documentario, The Forecaster di Marcus Vetter, su un mago della finanza che ha creato un modello informatico infallibile e nessuno gli ha dato retta, anche se poi viene chiamato da tutte istituzioni importanti a dire la sua in giro per il mondo. Ecco, questi sono i miei cinque, non in ordine. Il teorema della crisi è un film molto molto interessante, e sempre sulla faccenda della crisi segnalo che alle compagne e compagni che volessero continuare a discutere di questa cosa, il film La grande scommessa, che offre una lettura dello scandalo dei subprime molto molto acuta. Ok, bene Giona, io ti ringrazio, avremo modo di sentirci nel corso dell'anno, un abbraccio. Un abbraccio a te e a tutte le compagne e compagni in ascolto. A presto. A presto. Ciao Giona. Giona Nazzaro per le sue cinquine. Anna Maria Pasetti, ben ritrovata. Buon anno a tutti e buon cinema. Buon cinema. Allora, Anna, siamo alla seconda delle due puntate sulle cinquine, abbiamo sentito Federico Pedroni e Giona Nazzaro in questa seconda puntata, tocca a te, poi ci saranno Roberto Silvestri e in forma registrata e Franco Montini e in diretta nuovamente Paolo Mereghetti e faremo Ubi Maior, cioè tutti i nomi importantissimi. Io che ci faccio? Tu che ci fai, perché sei una delle storiche redattrici di questa trasmissione. Ti chiedo anche un bilancio di questo 2015 per iniziare, Annina. Sì, allora dunque un bilancio, sempre parliamo di cinema visto nelle sale, perché certo, naturalmente noi siamo un po' schizofrenici critici, vediamo mille cose, molte delle quali non riescono mai, alcune sono con molto ritardo in Italia, quindi siamo sfasati. Comunque le uscite del 2015 secondo me rilevano la ormai purtroppo constatata discrepanza tra il cinema che deve fare incasso, che deve fare, no? Box office, e quello che tenta in qualche modo di ricordarci che è anche un'arte. Io non sono tra quelli, diciamo, il critico snob, adesso poi c'è la polemica in corso, come sempre quando c'è che controllone in sala c'è la polemica del critico snob e non snob. A me va bene tutto, cioè io credo che il cinema abbia la forza di innovare veramente la sua identità artistica come forma, no, di immagini, movimento, audiovisiva, e una forma di industria collettiva e di mercato, cioè una cosa non esclude l'altra, sì, dovrebbero riuscire a convivere. Certo, ma al di là delle polemiche, Annina, vale la pena fare una piccola considerazione oggettiva, cioè che è uscito in 1500 sale, quindi va da sé, insomma, un sacco di cose conseguenti sono appunto conseguenti a questo dato. Sì, no, io credo che ci siano stati dei film fenomeno appunto al botteghino che al di là appunto di questo sono da rilevare, cioè l'animazione resta di qualità e resta forse l'unico tipologia di cinema che riesce a mettere d'accordo pubblico e critica. Ad esempio Inside Out, no? Sì. Nel 2015 è il campione di incassi, uno dei campioni di incassi, anzi lo è credo, ed è uno dei film più belli dell'anno. secondo me la Pixar è tornata alle sue, sì, cioè guarda caso, siamo in questo dia. Poi alla fine vincerà però, pure tra di noi, perché se lo stai votando arriva a 6 voti e stacca tutti gli altri, per esempio. È un esempio. Poi ci sono dei grandissimi film che io ho messo nel mio cinquina e quindi non voglio neanche spoilerarmi subito, che non ha visto nessuno, eppure sono usciti. Cosa dobbiamo dire? Allora, come ogni anno, il cinema buono c'è, basta cercarlo e lo si trova. Non tutti? Sì, certo, perché chi non abita, come alcuni in grandi città che pongono di una varietà di sale, non può vederli. Non vogliamo parlare di pirateria perché non è proprio il caso. Ci sono delle forme di streaming a basso costo, forse sono l'unica soluzione per chi non può vedersele in sala. Il cinema esiste il bel cinema. Non voglio fare i titoli perché sono troppi. Adesso stiamo parlando di che cosa sono stati i picchi del 2015, va bene. Non voglio fare i titoli perché mi dispiace poi escludere altri, no? Includere, sembra che io faccia già delle scelte. Come ogni anno c'è stata una grande varietà e viva Dio, almeno c'è la possibilità di scegliere. Sì. Forse il cinema ancora riesce a essere l'arte mercantilizzata, mettiamola così, più democratica, perché ce n'è un po' per tutti. A differenza di altre forme, no? Ecco, allora, la decadenza insomma tocca tutti, ma il cinema a modo suo è strutturato per auto, ha come degli anticorpi, insomma. Quindi è ancora vivo, sano forse no, ma vegeta bene. Senti, allora passiamo ai tuoi 5. Allora, tu mi hai detto che potevo tenermi la wild card per un italiano, esatto, giusto? Quindi l'ho tenuto fuori l'italiano. E ne ho anche 2 di wild card italiane, però vabbè, magari la userò come menzione. Ok. Dunque, io li ho messi in ordine alfabetico con i titoli in italiano perché non volevo dare una classifica. Ok. Allora, parto da Francofonia di Sokurov. Sì. Che è un film straordinario, secondo me, tocca l'area russa, ma di produzione, coproduzione europea, mettiamo così, comunque con una grande dose francese, naturalmente, e secondo me è uno dei grandi, uno ancora delle grandi opere di questo maestro russo che non ci smette mai di far capire dove stiamo andando, chi siamo, lavora su un'identità universale, toccando poi le specificità, no, del tempo e dello spazio. E è un film che a me, quando l'ho visto a Venezia, mi ha veramente sconvolto. E poi segue in ordine alfabetico per articolo determinativo Il ponte delle spie di Spielberg. No, è uscito a fine anno, è vero, è vero. No, è uscito il 16 dicembre, pure scritto tantissimo. No, guarda, adesso sta molto a te. Brava. Fatto uno studio di uscite. Quindi, il punto delle serie di Spielberg, che anche quello è un'altra conferma di un grandissimo mescolatore del nostro cinema contemporaneo, ma ormai non solo più, insomma c'ha una quarantina d'anni di attività ormai, no? Spielberg anche di più, e l'ho trovato un grandissimo film, anche se l'ho visto doppiato, mi piacerebbe vederlo in originale. E poi, sempre in ordine alfabetico, arriviamo a Inside Out, che appunto è stata la grande riscoperta della Pixar. Al momento il più votato. L'ho visto Al momento è il più votato, tra l'altro anche il quotidiano per cui io scrivo ha fatto quello online, ha fatto il sondaggio del 2015, Inside Out è in testa tuttora tra gli lettori. E poi in quarta posizione per ordine alfabetico metto Timbuktu di Sissako. Sì. Che anche questo secondo me è un film appunto tra gli invisibili, un po' come Francofonia, uscito agli inizi dell'anno, che è di produzione mauritania francese, e secondo me è di una bellezza, l'ho visto 2 volte, pazzesco, di una forza, un dolore, ma anche di una lucidità rari da trovare. E in ultima posizione in ordine alfabetico metto Turner di Mike Lee. Sì. Vabbè, che dire, capolavoro. Questi sono i miei cinque, l'outsider italiano così, Justi Paolo Sorrentino per me, con una menzione speciale per Angry Hearts di Saverio Costanzo che è uscito a gennaio del 2015, quindi lo considero così. E entrambi i film sono parlati in inglese, che posso dire anche se sono italiani. Non è una mia deformazione, perché si sa che ho un particolare amore per la lingua inglese, ma sono molto belli secondo me, rivelano questi autori che io amo particolarmente, insomma, italiani. Questi sono i miei, ho lasciato fuori delle cose per forza, le ho anche scritte sotto, ma non so se è il caso che io le dica. No, ci faresti solo confusione a questo. Esatto, sono stata abbastanza precisa, spero, no? A voglia, certo, pure in ordine alfabetico si è andata. Sì, perché è casuale poi, non è che. No, dato che non volevo dare delle preferenze, perché tutti hanno un valore nel loro esserci, no? Non mi va di dire uno più bello dell'altro, non è quello, cioè. No, li ho amati per ragioni diverse, quindi per me testimoniano l'annata di cinema. Ok. E quindi io, quando sapremo i risultati? I risultati, guarda, appena finisce la puntata o nel pomeriggio, quando pubblico il podcast della trasmissione. Comunque ti posso dire che mancano due voci, quella di Silvestri e Mereghetti di Montini, già sappiamo perché l'abbiamo avuto ospite martedì e quindi ce l'abbiamo registrato, ma insomma, se non ci sono grossi sconvolgimenti, credo che Inside Out ha 6 voti, è il primo staccato dagli altri. E il secondo non si sa? Il secondo dovrebbe essere Francofonia, ha 4 voti al momento. E ci sono anche no, Francofonia mi sa che è al secondo posto, 4 voti secchi, sì. No, sì, a questo punto sì, perché poi gli altri hanno tutti 3 voti, non essere cattivo, 3 voti e 5 menzioni, però insomma, gli altri tutti sui 3 voti. Questo è. Hai visto, io non l'ho messo, non essere cattivo. Senti Annina, ci sentiamo anche nel corso dell'anno, io ti abbraccio e ancora buon anno. Altrettanto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao. Questo per quanto riguarda Anna Maria Pasetti e le sue cinquine. Ed ecco a noi Paolo Mereghetti. Paolo, ben ritrovato. Grazie anche a voi. Oggi è la seconda delle 2 puntate previste. Quest'anno abbiamo veramente esagerato, 20 tra amici e colleghi critici, quindi ci sono state tante pellicole tra questi 5 scelti tra gli usciti in sala nel 2015, anche con la possibilità di menzionare un titolo in italiano. E piuttosto equilibrata la situazione, in testa c'è Inside Out che al momento è staccato. E questo è il dato parziale, Paolo. Allora, io ti chiedo anche, come faccio con gli altri, un bilancio complessivo dell'annata cinematografica. Ma il 2015 è stato un buon bilancio per quello che riguarda le presenze al cinema, che sono aumentate. Non è stato buono per il cinema italiano, che è sceso sul 20% circa dei biglietti venduti. Certo, adesso la nuova stagione è partita con Checco Zalone, e come dire, che sta facendo dei numeri straordinari. Qualche collega esercente sostiene che arriverà a 60-65 milioni di spettatori, quindi, come dire, cose straordinarie. Però il 2015 non ha visto un cinema italiano in grandissimo spolvero. Il resto, i film americani hanno fatto la parte del leone, ricordiamo appunto Inside Out, Minion, Star Wars, sono quelli Spectre sono i film che hanno incassato di più. Speriamo che sulle orme di Checco Zalone il cinema italiano ritrovi anche nel 2016, come dire, un pochettino di grinta e la strada per arrivare al pubblico. Passiamo ai tuoi, alle tue scelte. Sono state semplici oppure hai dovuto tagliare? Abbastanza semplici, devo dire, nel senso che mi sembra che un gruppo di titoli siano un po' emersi sopra gli altri. Mi dispiace per Inside Out, a cui, come dite, mi è piaciuto molto, ma qui non va il mio il mio voto come più belli. Io voto Vizio di forma di Paul Thomas Anderson, quello tratto, vuol dire, quello con Joaquin Phoenix, tratto da Pynchon, che mi è sembrato di gran lunga il film più bello visto quest'anno. Sfortunatamente, come dire, non è stato tra i massimi successi di pubblico, però è un film, perché è un film piuttosto complicato e difficile, mi è piaciuto molto, devo dire. Bene. E al secondo posto metto Turner, il film di Mike Leigh sul pittore inglese. Mi è sembrato uno di quei film che proprio mi ha preso il cuore, me l'ha portato come raramente il cinema riesce a fare, molto appassionante e tra l'altro, come dire, molto intelligente, perché Mike Leigh riflette insieme su quello che fa diciamo l'autore da vedo anziano, perché il film racconta la seconda parte della vita di Turner. Ecco, devo dire che questi due film sono quelli che proprio sopra tutti. Bene, bene. E questo per quanto riguarda i primi due, che grazie ai tuoi voti, insomma, salgono decisamente in classifica. Poi. Grazie. Poi al terzo posto metto Foxcatcher, che sì, è quello strano film di Bennett Miller su questo miliardario, la storia vera di questo miliardario amante della lotta greco-romana che si mette a proteggere, non si capisce, cioè, vuol dire, anche con qualche lato un po' oscuro di questo rapporto, si mette a proteggere questo giovane lottatore greco-romano che difendeva i colori statunitensi alle Olimpiadi. Lui, il miliardario, è Ben Stiller, quasi riconoscibile sotto un naso gigantesco, il lottatore è Tatum O'Neill e il fratello che lo allena, con cui c'è un rapporto molto anche lì un po' complicato, è Mark Ruffalo. Anche questo, come dire, è un film che ho trovato veramente straordinario, la capacità di raccontare l'America in maniere nuove e non scontate. Una messa in scena, un'interpretazione davvero inquietanti. Sì, molto, molto. Al quarto posto, finalmente un film italiano, Bella e Perduta di Pietro Marcello. Molto votato. È uno dei film più interessanti di questa stagione, devo dire. Ce ne sono stati altri, però questo mi è sembrato proprio con una capacità inventiva straordinaria. Prende lo spettatore e lo porta in un mondo che è mezzo reale, perché in certi momenti sembra un documentario, mezzo favolistico. C'è uno strano Pulcinella che arriva sulla terra a difendere un piccolo bufalo maschio, così, come dire, uno di quei film insoliti che fanno pensare che il cinema italiano, come era stato l'anno scorso, non so, Le Meraviglie per esempio di Alice Rohrwacher, uno di quei film insoliti che ti fanno pensare che il cinema italiano ha ancora molta linfa vitale. E quindi siamo al quarto. Eccomo al quarto. Al quinto, beh, metto Il Ponte delle Spie del vecchio Spielberg, diciamo così, mi permetto questa cosa. È un film tradizionale, classico, come si sarebbero fatti un po' di anni fa, un po' qualche decennio fa, però mi sembra un film assolutamente bellissimo nel suo equilibrio, nella sua capacità di costruire dei personaggi che ti rimangono nella testa. Tom Hanks non si dimentica, nel suo, come dire, seguire le peripezie di questo avvocato newyorkese buttato in situazioni più grandi di lui, e con qualche capacità di riflettere anche sull'oggi, perché naturalmente, come dire, Spielberg non dimentica quei valori americani, della democrazia americana, che ogni tanto qualcuno vorrebbe, non dico cancellare, ma mettere da parte, e che invece lui con i suoi film, come aveva fatto con Lincoln prima e come fa adesso col Ponte delle Spine, riporta proprio in primo piano. Bene Paolo, allora io ti ringrazio, ci sarà modo di risentirci sicuramente nel corso dell'anno. Ancora un buon 2016 e a presto. Anche a voi, auguri. Auguri. A presto. Ciao Paolo. Paolo Mereghetti con le sue cinquine. Eccoci con Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna per parlare del... Ciao Federico. Ciao, ben ritrovato. Per parlare del restauro del film Il Grande Dittatore in sala da lunedì 11 gennaio. Allora Gianluca, intanto parliamo del senso di questo titolo, di questa scelta. Ma guarda, io penso che... Perché oggi andare a vedere un film così antico, no? Un film che ha 75 anni. Ma credo per la sua incredibile attualità. Ecco, vorrei un po' ribaltare la questione. Cioè, questo è uno dei grandi momenti della cultura del Novecento, è un film a mio avviso eterno, è un film che viene fatto in condizioni incredibili, perché quando Chaplin progetta Il Grande Dittatore, cioè nel 1938, le potenze occidentali non hanno nessuna intenzione di fare guerra a Hitler, in particolare la maggioranza degli americani, degli statunitensi, vede in Hitler un potenziale difensore della cultura occidentale contro Stalin, contro il pericolo del comunismo. Sì. E quindi Chaplin ha dei grossi problemi a realizzare il suo film, e lo fa contro tutte le pressioni, comprese le pressioni dell'ambasciata tedesca a Washington, che fa pressioni molto forti sul governo americano perché Chaplin non realizzi il suo progetto. Perché che cosa dice il Grande Dittatore? Il Grande Dittatore è il film che svela al mondo la vera anima del nazismo. Ecco, noi oggi forse non ce ne rendiamo conto, perché per noi oggi, almeno per tutti coloro che sono dotati di senno, il nazismo è qualcosa di terribile, è una macchia nella storia dell'umanità, ma nel 1938 la maggioranza dei cittadini del mondo non la pensava così e vedeva in Hitler un capo di Stato capace di avere risollevato le sorti di un paese in una crisi economica nera e profondissima, che stava svolgendo il suo compito in maniera estremamente efficiente. Quindi Chaplin, attraverso questo film, mostra in maniera geniale, con tutta l'ironia, con tutta l'acutezza, con tutta la profondità di cui è capace, la mostruosità che si nasconde dietro a Hitler e dietro al nazismo, e lo fa anche attraverso questo paradosso, e cioè la straordinaria somiglianza dei volti tra il volto di Hitler e il volto di Chaplin. E quindi interpreta due ruoli, interpreta il ruolo di un ebreo, di un barbiere ebreo, e interpreta il ruolo di questo dittatore che nel film chiama Hinkel. Il film poi viene quando esce, la guerra è appena cominciata, ma ancora durante la guerra l'enormità, la mostruosità di quelli che erano i campi di concentramento, di quello che era il piano di distruzione, la Shoah, il piano di distruzione del popolo ebraico era ancora qualcosa che non era stato veramente compreso dall'opinione pubblica, e nel film, ecco, questa cosa viene gridata con straordinaria potenza. Mm-hmm. In questo, diciamo, e tutto questo è quello che rende questo film assolutamente unico. Non c'è un altro film che prevede la storia, che ha previsto in maniera così preveggente gli accadimenti storici. Non c'è un altro film che, mentre la storia si fa, si pone contro un'autorità politica e militare, come era Hitler, come era il nazismo, come era la Germania di quel momento. Ma oltre a questo, che già renderebbe il film qualcosa di assolutamente unico, c'è un altro elemento. Visto oggi, il film è un inno all'umanesimo ed è un inno contro il terrore, contro le forze del male, e per questo il discorso finale che Chaplin compie è un discorso che oggi ci fa venire i brividi, perché è il discorso che tutte le persone che hanno a cuore la nostra civiltà e tutte le persone che hanno a cuore l'umanità e il futuro dell'umanità non possono non sentire come un discorso rivolto a noi oggi, perché il discorso che fa Chaplin, che è un inno all'umanesimo, ma è anche un inno contro le forze del male, sembra diretto chiaramente contro quelle che oggi sono le forze del male. Mm-hmm. E in questo sta l'incredibile modernità di questo film, che va anche al di là della portata storica. Mm-hmm. E per questo penso che sia veramente uno dei grandi capolavori del Novecento. In più la versione restaurata, in più è la versione originale, quindi sentiamo la voce di Chaplin recitare, sentiamo la voce di Paul Godard, degli attori, e ovviamente la versione sottotitolata. Quindi penso che per un pubblico che non ha mai visto questo film possa essere una straordinaria scoperta, e per un pubblico che invece lo ha già visto può essere un'occasione intanto per vederlo come non lo ha mai visto. Tra l'altro in Italia il film è arrivato molto tardivamente, perché ha anche una parte di presa in giro di Mussolini, che il film è un personaggio che si chiama Napoloni, e quindi il film in realtà è uscito in Italia in una copia abbastanza censurata negli anni 60, poi è stato di nuovo distribuito all'inizio del 2000 dalla BIM, e oggi però esce in questa sua versione integrale e versione originale, e con un restauro digitale che consente di apprezzare appieno anche la qualità della fotografia, della messa in scena. Gianluca, tra l'altro al film abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con un fotogramma di Chaplin che sulla scrivania gioca con il mappamondo, anche perché sono tante oggi le potenze che giocano con il mappamondo. E volevo chiederti anche in sintesi un qualcosa sull'intervento di restauro. Guarda, a proposito, prima dico una cosa rispetto al mappamondo. Sai che questo fa parte dell'incredibile preveggenza di Chaplin, perché quando le forze sovietiche, l'Armata Rossa, arrivò a conquistare dopo una durissima battaglia il Reichstag, e quindi entrarono nell'ufficio di Hitler, ovviamente l'ufficio era tutto distrutto, sopravviveva una sola cosa, che era il mappamondo. Quel mappamondo esisteva veramente ed era molto simile a quello con cui gioca Charlot Hinkel. Mm-hmm. Il restauro è consistito nel recupero dei negativi originali, negativo suono e negativo immagine, scansionarlo a una definizione di 4K e cercare di ritrovare tutte le sfumature che avevano le copie originali. Il film era stato girato utilizzando il miglior negativo dell'epoca, che è il negativo Dupont, e quindi ecco, credo che siamo riusciti a raggiungere un livello di fedeltà assoluto. In questa versione esce solo negli Stati Uniti e in Italia, perché è un restauro che la Cineteca ha realizzato assieme a un grande editore americano che si chiama Criterion. Mm-hmm. Allora, lunedì 11 in sala, è un'uscita secca, Gianluca, un solo giorno o resisterà? Un solo giorno al Sannese, poi speriamo che il film funzioni, quindi che possiamo continuare a mostrarlo, quindi gli spettatori che ci vanno ci aiutano anche a far sì che il film non si veda solo un giorno. Gianluca, ancora auguri, e credo che ci sentiremo anche nel corso dell'anno per seguire, certo, questa politica delle uscite in sala dei film restaurati. Un abbraccio e a presto. Grazie molte Federico. Ciao. Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna sul restauro del film Il Grande Dittatore, in uscita in sala il prossimo lunedì 11 gennaio. Allora, stiamo cercando di metterci in contatto con Roberto Silvestri. Nel frattempo mandiamo in onda la registrazione dell'intervento di Franco Montini. Eccolo qui. Ciao, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Per quanto riguarda intanto l'anno cinematografico appena trascorso, Franco, che bilancio ne fai? Ma guarda, quando si parla in generale, io ho l'impressione che i giudizi complessivi siano sempre molto simili, cioè nel senso che poi nella proposta che viene fatta in un anno, film interessanti non mancano mai, così come gran parte della produzione lascia un po' il tempo che trova. Ho l'impressione che quest'anno non sia stato un anno particolarmente fortunato per il cinema italiano. Adesso, ripensando un po' ai film più interessanti dell'anno, è difficile in una cinquina, secondo me, inserire qualche titolo italiano. Per carità, alcuni titoli sono stati anche apprezzabili, interessanti, eccetera, però mi pare che non ci siano cose particolarmente strettanti e soprattutto particolarmente nuove. Si tende un po' a ripetere temi, messe in scene che sono, come dire, un po' ormai anche un po' stantie, insomma. Mm-hmm. Del resto il risultato di pubblico del cinema italiano lo dimostra: quest'anno c'è stato un netto calo della quota di mercato per la produzione nazionale, che dipende da molti motivi, ma forse anche, almeno in parte, proprio da una mancanza di novità, se non di qualità. Oh, noi in genere facciamo così, che se nella cinquina non è incluso un titolo italiano, c'è la possibilità di menzionarlo comunque. Allora, procediamo, dici tu. Ma guarda, io appunto, quando mi avete proposto questa cosa, ho fatto un attimo mente locale e mi sono segnato 5 titoli che, per varie ragioni, a mio avviso, insomma, sono i film più interessanti. Un primo titolo che segnalo è Forza Maggiore. Forza Maggiore. Il film di Ruben Östlund, che è un regista svedese, quarantenne. È un film che racconta una crisi familiare, la storia di una famiglia che è in vacanza sulle Alpi per una settimana bianca, e a un certo punto c'è quasi il rischio che si scateni una valanga, e il padre di famiglia, anziché, come dire, proteggere la famiglia, l'abbandona e fugge. Poi non succede niente, non c'è nessun dramma oggettivo, ma questo comportamento del padre mette in crisi quella che sembrava una solida famiglia. Insomma, un film molto intrigante che si pone un po' la domanda: contano più gli affetti o l'istinto di sopravvivenza? Ecco, è un film che secondo me mette in crisi molte certezze, non solo della famiglia che vediamo sullo schermo, ma insomma che interroga tutte le famiglie. Tra l'altro è tra i 5 che ho scelto anch'io, quindi insomma Ah beh, allora sì, insomma, no, ma immagino che sì, sì, sì. stato un film molto apprezzato, forse come spesso accade non giustamente premiato dal punto di vista del pubblico commerciale, ma sicuramente un film molto interessante. Sì. E posso segnalare intanto un altro titolo, anche questo molto, molto intrigante, molto inquietante, Foxcatcher di Bennett Miller, una storia ispirata ad un avvenimento realmente accaduto, anche se così apparentemente potrebbe sembrare una fantasia morbosa e un po' inquietante. È un film che racconta in fondo il sogno americano trasformato in incubo, con un protagonista, Steve Carell, che è quasi irriconoscibile anche dal punto di vista proprio fisico, con una prova, a mio avviso, assolutamente straordinaria. Anche questo, ripeto, un film che, come dire, approfondisce tutte le contraddizioni dello spirito e dell'animo umano, insomma. Senti, sicuro che sia uscito quest'anno e non a ridosso del... Non nel 2014, ma io adesso questa cosa non... È uscito quest'anno, è uscito quest'anno, è vero, 12 marzo. Però appunto mi sembra che poi in Italia sia uscito nel 2015, spesso accade che i film che vengono presentati per ragioni di doppiaggio, eccetera, poi come dire, arrivino con diversi mesi di ritardo. Sì. E sempre da un festival, in questo caso il Festival di Roma, ti segnalo The Walk di Robert Zemeckis, se non altro perché veramente un film dove il 3D ha un senso. La storia racconta l'impresa, la straordinaria, pazzesca, surreale impresa di Philippe Petit, che, come qualcuno ricorderà, camminò su un filo gettato fra le Torri Gemelle di New York, quindi un viaggio sospeso nel vuoto a 400 metri d'altezza, un'impresa assurda che però dimostra come anche l'impossibile sia realizzabile. E in questo caso veramente il 3D fa vivere questo senso di vertigine, questo senso di vuoto anche agli spettatori, ma poi non è soltanto per ragioni, come dire, tecniche. Mi sembra un grande film anche per questa sua dimensione fiabesca, poetica, emozionante. In fondo è anche un grande inno alla libertà, oltre che, come dire, in qualche modo anche un nostalgico omaggio alle Torri Gemelle. Sì. Proseguiamo invece con un film assolutamente divertente, un film, secondo me, il film più divertente dell'anno, quello con cui davanti allo schermo ho riso di più, ed è Tutto può accadere di Peter Bogdanovich. Tutto può accadere a Broadway era il titolo, esattamente, sì. Almeno il titolo italiano. È una commedia assolutamente irresistibile, a mio avviso, che ricorda un po' il cinema di Lubitsch, ma che ha anche alcuni spunti un po' alla Woody Allen prima maniera. Che dire, insomma, una storia con una messa in scena molto, molto accurata, molto, molto divertente, un crescendo di equivoci, di sorprese, di liti, di gelosie, assolutamente straordinario, che dimostra, insomma, fa un po' rabbia il fatto che per tanti anni Peter Bogdanovich sia rimasto fermo, mostrato con questo film di essere sempre uno straordinario grande regista. Sì. E per ultimo vorrei segnalare un documentario. Tra l'altro un documentario che ha per protagonista un grande critico cinematografico, che è Roger Ebert. È stato il critico cinematografico di riferimento di molte generazioni di spettatori americani. C'è un film che ne racconta la storia, Life Itself, di Steve James, ed è un ritratto straordinario di una persona che, anche se privata per seguito una malattia per lungo tempo della parola, ha continuato a raccontare il cinema con i suoi scritti, a comunicare emozioni con i gesti, con lo sguardo. È un film straordinario sia per la vicenda umana del protagonista, sia perché è uno straordinario atto d'amore nei confronti appunto del cinema. E insomma, da presidente dei critici cinematografici non potevo non segnalarlo, insomma. Senti, hai ricordato anche il titolo? Life Itself. Ok. E poi siamo a 5. T'ho detto, se vuoi, insomma, c'è anche la possibilità di menzionare un italiano. Ma guarda, un primo titolo che mi viene in mente è Per amor vostro di Gaudino. Sì. Che è un film certamente molto interessante. Un film direi perfino troppo pieno di cose. Se fossi stato, come dire, il produttore di questo film, avrei costretto Gaudino a sfrondarlo un po' di sorprese, di eventi, soprattutto di effetti visionari, perché mi sembra perfino troppo pieno di queste cose. Detto questo, è comunque un film molto emozionante, anche questo, un film, un ritratto di donna meraviglioso, interpretata da Valeria Golino, la protagonista. Insomma, Gaudino aveva già dimostrato di essere un regista molto interessante, e anche nel suo caso, come già diceva per Bogdanovic, c'è sempre questo rimpianto di registi assolutamente straordinari, di autori molto importanti, che invece, così, per una serie di situazioni di mercato, riescono a proporre i propri film con distanze di tempo molto lunghe. Vorremmo vederli invece più spesso. Sì, sicuramente. Franco, io ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente nel corso dell'anno. Buon 2016 intanto. Allora, buon 2016 anche a voi e al cinema. E al cinema. A presto, Franco, un abbraccio. A presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ecco l'ultima voce tra le 20 che abbiamo avuto per queste due puntate di speciale Visionari sulle cinquine del 2015, ossia i preferiti, 5 preferiti tra colleghi e amici critici cinematografici. Roberto, ben ritrovato intanto su queste frequenze. Ciao, buon anno. Buon anno. Buon anno a tutti. Allora, ritardo. Roberto. In ritardo, sono arrivato adesso da fuori. Dunque, allora, facciamo prima un discorso un po' più generale su quest'annata. Qual è il tuo bilancio? Beh, il bilancio mi sembra eccellente. Intanto il cosiddetto maledetto cinema del reale sta andando molto bene, anche espandendosi al di là di se stesso. Mi pare che molto cinema mainstream o comunque di grande budget sta proprio andando fuori dal postmoderno, no? In maniera proprio, cioè, niente pensiero debole, molte cose forti, molto ritorno sulla storia, sulla politica, quindi una grande iniezione di ribaltamento storico. Anche i migliori film mi sembra che hanno tutti degli atteggiamenti molto revisionistici in senso buono su quello che è stata la tradizione della storia, per esempio il cinema americano, ma non soltanto. Devo dire che le cose più interessanti sono quelle di cui noi non possiamo parlare oggi, perché se pensiamo che Rabin di Amos Gitai non è uscito, il nuovo documentario di Friedrich Wiseman in Jackson Heights non è uscito, Le mille e una notte di Miguel Gomez non è uscito, Il figlio di Saul uscirà tra poco, il film di Apichat Pong, Vera Setagul, Cimitero di Splendore non è uscito, un film tunisino di Leila Bouzid, fantastico, sulla rivoluzione, sui 5 anni della rivoluzione tunisina, appena apro gli occhi non è uscito, Earth of the Dog non è uscito, Montagna di Joe Salavita portoghese della nuova generazione non è uscito. Insomma, il cinema è molto interessante in questa fase, ma purtroppo è il monco. Mercato non fa capire quanto sì. È interessante. E quindi anche, tra l'altro, molti film, diciamo, se diciamo quali sono i migliori film del 2015, pensiamo a Comunista in Distrob, Vizio di Forma e Clint Eastwood, o no, perché sono film del 2014 ma li abbiamo visti nel 2015. Sì, sono sì. Questi quelli di cui dobbiamo parlare, no? No, quelli usciti in sala, quindi ci rientrano comunque. Però mi sembrerebbe strano, perché già ne abbiamo parlato l'anno scorso, che erano i film più belli dell'anno scorso. Beh, no, perché noi facciamo sempre riferimento, poi alcuni tra noi chiaramente li hanno citati perché hanno avuto modo di vederli in altre occasioni, magari festival, però comunque fa testo la sala, insomma, quindi... Però da un certo punto di vista, diciamo, io li considero un po' dei film già apprezzati l'anno passato, insomma, mi sembrerebbe più interessante quelli che sono stati prodotti nel 2015, ma se la cosa è, allora diventano più di 5. Comunque quei tre li metterei naturalmente. Poi bisogna anche dire il cinema italiano, che è di grande interesse anche all'estero, no? Cioè, voglio dire, Checco Zalone fa molto bene a fare questa cosa che lui pensa che sia una farsa, che fa ridere, insomma, però non esce dall'Italia quel tipo di cinema. A noi abbiamo bisogno, visto che l'italiano è parlato poco nel mondo, abbiamo bisogno di cose che abbiano una grande forza visiva soprattutto, no? E che possano interessare occhio e mente straniero. E quindi da questo punto di vista i film che più sono passati all'estero quest'anno sono stati, al di là, diciamo, dei Sorrentino eccetera, sono stati Mediterranea di Giovanni Scarpignano, che paradossalmente non esce in Italia, che è un film che è stato apprezzato, lanciato a Cannes, apprezzato soprattutto nel mercato americano, è un modo di meditare sulla questione dei profughi e del Mediterraneo, delle stragi del Mediterraneo e dell'emigrazione in Italia in maniera molto approfondita, perché Carpignano è un regista che vive a New York, ma vive anche proprio là dove sono stati, a Rosarno, proprio là dove ci sono stati gli scontri, e quindi lui li ha vissuti e filmati dall'interno e non, diciamo, turisticamente. Sì. Minervini, Louisiana, è un altro regista pazzesco italiano che è conosciutissimo all'estero, che non ha la stessa fama in Italia, e Louisiana, devo dire, dopo quello che sta succedendo in Oregon in questi giorni, è ancora più interessante, no? Cioè questo popolo derelitto della periferia dell'America, armato, pronto a fare delle cose pazzesche in nome, no, dei grandi ideali della cultura americana, quella di avere le armi, di poter possedere le armi, di andare contro il governo con le armi in mano, perché è diritto degli americani attaccare lo Stato se lo Stato non risponde, no, ai grandi principi della Costituzione americana. E il film di Minervini lo radiografa molto bene. Poi Bella Perduta di Pietro Marcello, che è un film strepitoso, che è stato amato a Locarno in maniera veramente plebiscitaria da tutta la critica acuta del mondo, non si può non parlarne, insomma. Diciamo invece i cinque che mi piacciono. No, però aspetta, tu hai citato allora all'inizio Kommunisten, Heimat 4 e American Sniper, se non sbaglio. No. Ho citato Comunista in Distrobo, Vizio di Forma. Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson e American Sniper di Clint Eastwood, ma li davo come vecchie cose. Vizio di Forma. E invece tra questi gli ultimi hai detto Bella e Perduta, Louisiana, e il terzo qual era, scusami? Mediterranea di Giovanni Scarpignano. Ok, perché Louisiana e Bella e Perduta specialmente sono già votati dagli altri, quindi insomma. Sì. Però io, diciamo, li mettevo come dei film italiani interessanti, non i migliori film dell'anno. Ok. Invece, per quanto riguarda i migliori film dell'anno, sì, ne avrei 5. Ok. Allora, uno, The Walk di Robert Zemeckis. Sì. Perché è un altissimo quoziente di difficoltà, sia dal punto di vista proprio del gimmico, no? Sia cinematografico, perché vedere uno sul filo per due ore, insomma, è molto difficile. E poi l'impresa è davvero impossibile da ripetere, ineguagliabile, no? Visto che le Twin Towers sono cadute, per cui c'è un potere di suggestione in questo film altissimo. Poi è anche un grande elogio alla generazione maggio francese, no? Questo vietato vietare, fate l'amore non la guerra, no? Perché in fondo il grafico del simbolo pacifista sembra proprio l'uomo in equilibrio con l'asta. E poi prendiamo i nostri desideri per realtà, siate realisti, chiedete l'impossibile, sembrano proprio, no, le frasi che hanno guidato questo film. Quindi a me piace particolarmente. Sì, sì, sì. Oh, Carol, mi interessa Todd Haynes, direi il numero due. Ma Carol però esce adesso. Esce oggi. Carol lo togliamo perché esce adesso, è vero. Però io l'ho visto l'anno scorso. Togliamo, comunque ve lo consiglio, è molto bello. Okay. Allora, due, Il ponte delle spie di Steven Spielberg, okay. Perché ribalta per un amore maggiore rispetto al cinema, non come giochetto ideologico, tutti gli stereotipi del genere spionistico, come ha fatto in Private Ryan con quelli del cinema bellico, no? Qui è una specie di omaggio a John Huston, al John Huston di Lettera dal Cremlino, che era un film veramente molto bello sul bipolarismo politico, sul mondo retto in pratica da sistemi spionistici che erano nello stesso tempo identici, no? Per crudeltà, per furbizia. Quindi mi sembrava in questo senso molto anticonformista rispetto al genere. Sì. E poi, come aveva fatto un po' nel Soldato Ryan, rivalutando The Big Red One di Samuel Fuller, sì, facendone proprio un elogio. Adesso lo aspettiamo nel cinema western, speriamo che faccia delle cose belle anche sul west. Allora, secondo, Ponte delle Spie. Sì. Terzo, Viva gli Sposi di Ascanio Celestini. Ah. Secondo me è molto, è un film straordinariamente passato inosservato. Sì, sì, troppo. Sì, sì. E credo che invece sia stato il Non essere cattivo riuscito, perché Caligari ne ha fatto un film, diciamo, un po' chiuso rispetto anche alla libertà di fraseggio che aveva nei suoi fantastici film precedenti. E qui invece credo che Celestini abbia ripreso il testimone, è riuscito a fare un film che dispiace davvero a tutti i gusti legittimi, sì, a tutto quello che uno si aspetta di piacevole nel cinema. E lui è riuscito proprio, un po' come faceva Pasolini ai suoi tempi, come facevano altri geniali interpreti della bellezza della marginalità, Pedro Costa, no? Ecco, lui è una specie di Pedro Costa italiano, e io credo che questo film dovrebbe essere rivalutato. Roberto, sì, Roberto, come notazione aggiungo però che Caligari è scomparso in fase di montaggio, quindi il montaggio finale non può considerarsi opera sua, e sappiamo quanto conta il montaggio, sì, in un film. Sì, non so. No, è vero, però io credo che fino all'ultimo respiro Caligari abbia dato le indicazioni che poi credo che siano state davvero eseguite alla perfezione. Okay. Non credo che ci siano stati da questo punto di vista. E Luca Marinelli e Alessandro Borghi sono strepitosi, no? Attori, sì, pazzeschi. Il film, voglio dire, è molto bello, molto interessante. E non è volutamente sorprendente, perché proprio, sì, sì, è tornato Caligari a questo spazio, a questi tempi, a questi bellissimi personaggi, alla forza di questi personaggi strepitosi. Forse rispetto a Amore Tossico è proprio cambiato il contesto in cui li vediamo. Certo, certo. Quindi in questo senso mi sembra un bellissimo film, non tra i migliori dell'anno. Sì. Allora, eravamo a tre, sì, il quattro è naturalmente Big Splash, un altro film che ha fatto incazzare molti. Anche Jonah Nazzaro lo ha votato, pensa. Lo considera il migliore dell'anno. Io no, il quarto, però Luca Guadagnino è sempre un regista che è capace di superarsi, di scavalcarsi, anche il fatto di riprendere la piscina e di riprendere quel tipo di cinema che si odiava da piccoli, cercando di farne qualche cosa che fosse più alla nostra portata, quindi eliminando, non so, gli artisti intellettuali del milieu francese e borghese, portandoli a quello che noi amiamo disprezzare, cioè, che ne so, il rock alla Rod Stewart, e quindi mi sembrava perfettamente bello di una parodia, di una cattiveria, di una crudeltà pazzesca, e soprattutto accentuata dalla scena finale. Lì nella scena finale si è coagulato proprio il disinteresse di tutti, cioè, no, vabbè, ma allora una cazzata, proprio nel momento in cui uno cerca di trovare il sistema, la chiave segreta del film, arriva Corrado Guzzanti e fa la battuta che uno dice, ah, vabbè, ma allora è una scemenza. Sì. Invece proprio quella battuta, quel modo di accentuare l'orrore della situazione che si è vista e che non si è voluta considerare tale, mi sembra che quella battuta la accentui con ancora più forza. Oltretutto quella bellissima scena di Ralph Fiennes nel morto nella piscina è di straordinaria forza iconica e mi ricorda Isaac Julien, le cose più belle che sono state fatte dal punto di vista visivo contro l'orrore del Mediterraneo, tomba gli migranti, mi sembra che Luca l'abbia presa, l'abbia catturata con una ferocia fantastica. Quindi io penso che questo quarto, vabbè, come quinto, visto che l'ho detto prima, allora mettiamo Bella e Perduta, Bella Pietro Perduta. Marcello perché è un uccellacci uccellini. Ecco, diciamo che è la versione italiana di un film portoghese che speriamo qualche distributore prenda, si chiama Le Mille e Una Notte, questa specie di road movie dentro il Portogallo, dentro la storia minima, minore, non raccontata dai giornali, dai media, del Portogallo, che viene inanellata come se fosse Le Mille e Una Notte, no? In modo da non finire mai, perché bisogna stare attenti a guzzare la vista, eccetera. E Pietro Marcello l'ha ripresa invece che con Le Mille e Una Notte, attraverso il mito di Pulcinella, che una maschera misteriosa è tuttora molto difficile da decifrare e che ci serve invece proprio come cartina di tornasole per capire l'orrore che viviamo in questo periodo in Italia. Bene Roberto, io ti ringrazio, a questo punto credo che ci risentiremo anche nel corso dell'anno, ancora un buon 2016. Sì, un'ultima cosa, dimmi, certo. Riassunto naturalmente da Guerre Stellari, perché Guerre Stellari tiene tutto quello che ho detto, perché in fondo per vedere Guerre Stellari bene vi consiglio di catturare un documentario che è uscito quest'anno che si chiama Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, cioè la scientologia, la prigione della Buddha, della religione, del credo, sì, di Lawrence Wright, perché sì, c'entrano, cioè tutta la costruzione che Lucas mette in discussione veramente è diciamo la chiesa di scientologia, la sua struttura fantascientifica che apparentemente glorifica gli anni 50 e quel modo di vivere degli anni 50, come se fosse quello dell'assoluto, quello del mondo migliore possibile, il migliore dei mondi possibili. E credo che proprio con molta acutezza Lucas da sempre polemizza con questo tipo di visione dell'America che considera tutti noi delle imprese, non delle persone, degli esseri umani, sì, delle imprese che devono fare soldi, che devono fare reddito, che devono essere capitale umano, ecco. La più bella contestazione di questo concetto, che poi è chiave per il postmoderno, è contenuto in Guerre Stellari, che è il film più rivoluzionario della nostra epoca. Bene. Bene Roberto, allora un abbraccio e a risentirci. Ciao. Nel corso dell'anno. Ciao. E Roberto Silvestri era l'ultimo ospite di questa seconda e ultima parte di Visionari, dedicato ai migliori film, ai film preferiti del 2015 tra quelli usciti in sala secondo i giudizi e i gradimenti di amici e colleghi critici cinematografici. I risultati li pubblicheremo a breve insieme al podcast della puntata. Ci potete ascoltare in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla puntata di oggi e sulla trasmissione più in generale le trovate sul sito alla voce trasmissioni, la colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. È tutto, buon proseguimento.